Europa 24. Tornano a farsi tesi i rapporti tra Bruxelles e Ankara. Ripartiamo da qui per la settimana europea. Un saluto da Anna Migliorati. La Turchia non dovrebbe fissarsi sull'idea di entrare nell'Unione Europea, ma dovrebbe guardare ad altre opportunità di partenariato, come per esempio l'organizzazione di Shanghai per la cooperazione. Così dice il presidente turco Erdogan, lanciando un nuovo avvertimento. Bruxelles decida entro la fine dell'anno sulla membership turca e sul regime facilitato di visti per i cittadini turchi. E intanto la Turchia nega la visita di alcuni eurodeputati al leader curdo Demirtas. Nessuna visita neppure da parte degli eurodeputati socialisti per Demirtas, il leader detenuto del partito filo-curdo Partito Democratico del Popolo, arrestato assieme ad altri 11 parlamentari in Turchia il 4 novembre, con l'accusa di essere legati al Partito dei Lavoratori del Kurdistan, il PKK, considerato dalla Turchia un'organizzazione terroristica. Fra gli eurodeputati a cui è stata negata la visita, l'italiano Brando Benifei. Noi stiamo ora venendo via da Edirne perché non ci hanno fatto entrare nella prigione. Noi volevamo incontrare Demirtas, che come ho detto lo conosciamo, è un membro della nostra famiglia politica. Anche come Parlamento europeo abbiamo condannato fortemente la sospensione dell'immunità parlamentare nei confronti dei parlamentari dell'HDP, partito che è il terzo in questo momento del paese, che tutta questa situazione è inaccettabile. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dopo le rassicurazioni sui rapporti transatlantici con il segretario generale della NATO Stoltenberg, che ha chiamato il presidente eletto americano Donald Trump, oggi anche l'alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza, Federica Mogherini, è tornata a chiarire i rapporti tra Europa e America sul fronte, appunto, della sicurezza. We play on the same side. We are different in nature, but we share the same objectives, we have the same values. Lavoriamo dalla stessa parte, siamo diversi ma crediamo negli stessi valori, ha detto, e poi ha insistito per l'unità sia tra i paesi europei per la sicurezza comune, dice, sia nei rapporti con l'alleato al di là dell'Atlantico. È quello che chiedono i cittadini di qua e di là dall'Atlantico, dice Federica Mogherini, perché la sicurezza dei nostri continenti è correlata. Braccio di ferro intanto in Europa sul bilancio dopo la stensione italiana, parla oggi a Radio 24 Matteo Renzi. Come funziona? Il meccanismo è semplice, ogni 6 anni si fa il bilancio, per noi l'ha fatto il governo Monti. In questo bilancio noi diamo 20 miliardi di euro all'anno all'Europa e ne prendiamo indietro 12. Io non ho giuridicamente possibilità di bloccare questi 20 miliardi, ok, per quest'anno. Sì. Posso soltanto dire che siccome nei prossimi giorni e nelle prossime settimane inizia la discussione sul prossimo bilancio, noi diremo, ci va bene essere un soggetto che mette più soldi, siamo l'Italia, siamo forti, siamo un grande paese, però uno, o sull'immigrazione iniziate a fare le persone serie, oppure questi soldi noi non li mettiamo, perché li teniamo a casa nostra e ci organizziamo per i fatti nostri, e sull'economia non potete continuare con una filosofia dell'austerity, che è una filosofia che non porta da nessuna parte. È una minaccia concreta. È un amorevole consiglio. Non parliamo di accozzaglia, ma di coalizione. Non parliamo di minaccia, ma di grazioso suggerimento agli amici europei. Io mi sono rotto le scatole di quelli che dicono ce lo chiede l'Europa. Vabbè. Secondo me l'Italia è un paese forte, ha fatto le riforme, ci siamo spaccati la schiena in questi mesi a cominciare dal Jobs Act per far ripartire il paese. Sì. Ci sono i primi segnali di ripartenza ancora non sufficienti. Io dico, o l'Italia adesso gioca in grande in Europa, oppure se dobbiamo continuare con ce lo chiede l'Europa, riprendetevi il governo tecnico, erano così bravi loro che va bene. Fermi lì. E anche noi ci fermiamo qui, ma non per parlare d'Europa, perché l'appuntamento è come sempre questa sera d'effetto notte. Parleremo di altri rapporti delicati, quelli tra Europa e Russia. Ancora un saluto intanto da Anna Migliorati. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.